in viaggio per gli Stati Uniti, a cura di Viaggi di Cultura di Bologna, Schindler Studio, Hollywood, Los Angeles. Nella Los Angeles, dove spesso si va a cercare prove della grandezza degli Stati Uniti, monumentale, museale, nella città delle grandi strade, delle grandi autostrade, delle grandi vie di comunicazione, sono pochi che sanno dell'esistenza di un piccolo gioiellino dell'architettura contemporanea proprio in Hollywood, non tanto distante dal teatro cinese, chiamato Schindler Studio, quasi nascosto, dimesso. È stato costruito all'inizio degli anni 20 da una famiglia di profughi provenienti dall'Europa, Schindler e sua moglie Pauline, che nel cuore di questa comunità di emigrati scappati alle follie dell'Europa, alla guerra e anche alla rivoluzione, tentano di in qualche modo costruire qualche cosa di nuovo che salvi la novità degli anni e al tempo stesso sia rapportata ai loro mezzi. Sono persone che vivono poveramente, hanno pochi soldi. E che cosa pensa di costruire questo grande architetto? Beh, la sua idea centrale è quella di costruire uno spazio familiare, quindi una casa, che sia però archetipo e base di un modo di convivere, di abitare, che permetta alle famiglie di condividere lo stesso spazio, condividendo quindi una comunanza di vita di tutti i giorni, ma anche spesso di partner. Casa Schindler è la casa dove gli spazi comuni sono condivisi, gli spazi privati sono separati in quattro diverse stanze e dove la semplicità della costruzione è scandita sostanzialmente dal fatto che è un cassone di cemento innalzato in verticale, un modulo fisso che potrebbe ricordare nella sua rettangolarità il tatami, semplicemente molto più ampio, che viene rizzato in verticale fino a costruire la parete, le pareti della casa. Nei punti di giunzione tra i due pannelli, Schindler lascia un vuoto e in questo vuoto diventa la fonte di luce dell'abitazione. Per cui, tanto per cominciare, l'illuminazione è estesa a tutta l'abitazione, ma non è concentrata in una finestra. Viene da queste fessure che si aprono nella parete di cemento, ma non è una parete, e garantisce una luminosità molto giapponese, cioè la luce c'è, è sempre forte, è sempre importante, ma è molto indiretta. Io non so se Louis Kahn conoscesse Schindler Studio, ma certamente nel suo museo di Fort Worth certamente le tecniche che lui usa sono esattamente le stesse, cioè lasciare penetrare la luce dentro il museo ma non in modo diretto, perché la luce sia della California che del Texas è talmente forte che poi brucia i dipinti, brucia tutto, cioè voglio dire, non è una luce che possa essere accettata direttamente. Schindler Studio è una costruzione povera, è una costruzione poverissima, anzi per dirla con il commento che si sente più frequentemente quando si va a visitarla è «Ma tu abiteresti qui?», dice una moglie al marito, «tanto più con un'altra famiglia». Sì, d'accordo, possono sembrare scelte difficili da prendere e da mantenere nel tempo, e la stessa famiglia Schindler non ci visse poi più di un tanto, presto le due comunità, le due famiglie, le due unità familiari che dovevano condividere lo spazio si separarono, come poi succede non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. Ma l'esperimento resta, è un esperimento povero, chiunque potrebbe permetterselo. Quello che c'è di alto, di altissimo, è il disegno e la concezione. Da non perdere, Schindler Studio, Hollywood, Los Angeles. Viaggi di Cultura tornerà con un nuovo episodio di Un viaggio per gli Stati Uniti la prossima settimana.